Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Vorrei due ali d'aliante per volare sempre più distante. E una baracca. Le ali, mi dispiace, non le abbiamo, ma abbiamo le alette. Localizzatele, iniziate a muoverle. Non è difficile, lo state facendo perché mentre respirate loro si muovono. Sono proprio lì, al lato del nostro naso. Lasciatele libere di muoversi. Inspirate. Voilà. Ed espirate. Anche il dottor Franzetti, primario di otorino alla ringoiatria all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, che è qui in studio con me, ha mosso le sue alette. Buongiorno. Buongiorno, certo, si alzano quando entra l'aria e si abbassano quando tende ad uscire, e poi sono sempre con movimenti diversi, destra e sinistra, come tutte le parti del nostro corpo. Adesso tappatevi il naso e pensate a quanto sarebbe difficile e incolore la nostra vita senza questa magnifica, come possiamo descriverla, una piccola proboscidina. Certo, proviamo a pensare cosa vuol dire vivere con una molletta sul naso. Oltre a non respirare, c'è una voce che si altera l'olfatto, si altera il gusto e anche il gusto della vita. Allora, noi siamo pronti perché vogliamo oggi occuparci del nostro naso, che fa tantissime cose, non solo respira, quindi è fondamentale, ma ci permette proprio di respirare la vita e quindi di annusarla. E ci sono delle strutture nel nostro naso che sono proprio fatte per quello. Certo, perché all'interno del naso noi abbiamo come le specie di palloncini che hanno molte funzioni, che si chiamano turbinati. Vi devo ricordare che oggi il nostro quizzettone è dedicato agli ascoltatori che chiameranno il nostro numero verde 800 24 00 24. Come sempre vi ricordo che siamo su Facebook e potete seguirci anche su Twitter. Allora facciamo la domanda. Il dottor Franzetti si è preparato una domanda multipla. La domanda per il quizzettone. Allora, la domanda riguarda appunto questi turbinati. Bisogna dire quanti sono questi turbinati e che cosa servono? Tre risposte possibili. Vai. La prima, risposta A, è che i turbinati sono in numero variabile a seconda delle dimensioni del naso, perché devono creare dei turbini di aria all'interno del naso per cercare di regolare i flussi aerei. Seconda risposta, risposta B, i turbinati sono in tutto sei, tre da una parte e tre dall'altra, inferiori, medie e superiori, e servono per umidificare e riscaldare l'aria e anche per indirizzare i flussi aerei, per esempio verso le regioni delle cellule olfattorie. Risposta 3, C. I turbinati sono due, uno a destra e uno a sinistra, sono delle sostanze spugnose che si gonfiano e si sgonfiano di sangue e servono per umidificare, riscaldare e depurare l'aria. Allora, prima risposta, numero dei turbinati variabile. Sono 6, 3 da una parte e 3 dall'altra, oppure sono 2. 800 24 00 24, nasi di essere benessere, datevi da fare, liberatevi, respirate, annusate, catturate l'aria, gli odori, i profumi, ma anche le puzze, e chiamatevi. Oggi vi invito a essere cronisti olfattivi, disegneremo insieme la mappa dei profumi, perché no, delle puzze d'Italia, ma confessatemi anche le vostre passioni olfattive, perché gli odori buoni, lo sappiamo, piacciono a tutti, ma ciascuno di noi ha un odore nel cuore, nel naso e nel cervello che gli piace in modo particolare. Oh naso mio, come parlar male d'una cosa naturale, quotidianamente c'è chi mi dirà che un naso come questo è un'assoluta enormità, più grande assai. Corto, lungo, aquilino, all'insù, all'ingiù, dimmi il naso che hai tu, dottor Franzetti, perché la forma del naso forse ci dice anche qualcosa sul suo modo di funzionare. E certo, perché chiaramente la forma del naso, oltre a essere un aspetto estetico molto importante, riveste delle caratteristiche che regolano i flussi dell'aria, regolano la capacità di sentire gli odori, e chiaramente spesso si dice che naso grosso sente meglio gli odori o respira meglio, ma questo non è mica detto, perché spesso naso grosso corrisponde a turbinati grossi, a setto deviato, a malformazioni interne, e quindi bisogna considerare non solo la forma esterna del naso, ma anche la sua forma interna, perché questo è molto importante. Abbiamo messo sul nostro profilo Facebook i nostri nasi. Io metto la faccia, ma oggi ho messo anche il mio naso, potete vederlo lì. Ma naturalmente ho coinvolto in questa follia anche il mio amico e collega Alessandro Milan. Abbiamo messo anche il naso di Laura Vanossi, che lavora con me in redazione, e di Alessandro Longoni. Perché tutto questo? Perché come una sorta di gioco vorremmo provare a leggere un po' il nostro naso, a darvi degli strumenti partendo dal nostro per leggere il vostro. In diretta abbiamo, è tornata a trovarci, la dottoressa Anna Guglielmi, autrice del libro Il linguaggio segreto del volto, edito da APM. Dottoressa Guglielmi, buongiorno. Buongiorno a voi. Quante cose raccontano i nasi? Nel suo libro lei lo descrive bene, facendo una guida accurata dalla radice, della punta del naso, le famose alette, ma proviamo a leggere, iniziamo col mio, dai che ci metto la faccia e il naso, potete vederlo anche voi, lo sta guardando anche il dottor Franzetti. Dottoressa Guglielmi, ci dia delle indicazioni. Io vedo un naso molto bello, con una piccola gobbetta a metà del dorso. Questa gobbetta, che spesso crea problemi e noi donne cerchiamo di farcela togliere, invece è un segno di volontà, di perseveranza, di determinazione. Il naso è sottile, la persona, io lo vedo di profilo, vedo le narici abbastanza unite, e le narici, se ne parlava prima, e sono il mezzo che ci permette di ispirare ossigeno, cioè di ispirare la vita, cioè di far entrare tutto ciò che c'è fuori, gli aspetti, le emozioni. Quando sono più strette sono selettive, la persona è in grado di far entrare ciò che lei ama, che decide, quindi non tutto. Magnifico, io quasi quasi ne farei un'altra di foto anche dall'altra parte. Dottor Franzetti. No, è interessante l'osservazione che faceva all'inizio della gobbetta, perché c'è una stranezza che, per esempio, tutti gli occidentali vorrebbero avere il nasino piccolo all'insù senza la gobbetta. Tutti gli orientali invece vogliono fare le rinoplastiche aumentative perché hanno tutti i nasini piccoli e vogliono il naso con la gobbetta. Quindi se qualche orientale vuole, io do lo stampo della mia gobbetta. Dottoressa Guglielmi, passiamo al grande Alino Milan, biondo con un naso importante, potete anche vederlo sul nostro profilo Facebook. Che cosa le racconta? Allora, questo è un bel naso. I nasi grossi, mi sto collegando per riuscire a vederlo, eccolo. Questo è un bellissimo naso. Come dicevamo, o perlomeno io amo dire, il naso, se noi dovessimo attraversare il mare della vita, ecco, il naso è il nostro timone. Un naso piccolo in un volto, nel volto femminile è un altro discorso, in un volto maschile un naso piccolo è come se ci fosse un piccolo timone, poca volontà che ci guida nella nostra vita, cosa che invece un naso grande, beh, la persona è determinata, ha volontà, ha carattere. Grande vuol dire che la persona ha più fiuto. A proposito di olfatto, ma fiuto nel senso anche di intuito, di piacere, fiuto, certo. Sete di conoscenza, bisogno di profondità, bello, bello. Ricordiamoci che avere, e c'è anche, non so, non è il caso di questo naso, perché questo è tutto proporzionato, ma addirittura Plinio il Vecchio sosteneva allora e lo scriveva, ed allora è rimasto un modo di dire, così il naso, così, quindi l'aspetto maschile, diciamo. Se la ride Matteo Comes in regia la parte tecnica, e anche lui, lo dico alle ragazze all'ascolto, ha un bel naso, quindi se la dottoressa Guglielmi ci ha dato un'indicazione importante. Tra l'altro noi abbiamo messo il nostro naso, la dottoressa Guglielmi gentilmente, partendo dalla forma del nostro naso, ha dato qualche indicazione per voi, ma che cosa abbiamo pensato? Abbiamo chiesto alla dottoressa Guglielmi se poteva lavorare un po' per noi oggi, e quindi io vi invito a mandare il vostro profilo, vero, il profilo del naso è sufficiente. Sì, sì. Sul nostro profilo Facebook, la dottoressa Guglielmi, a suo insindacabile giudizio, sceglierà tre nasi che le ispirano in modo particolare. Domani sul nostro profilo Facebook metteremo naturalmente il commento della dottoressa Anna Guglielmi, ricordo, autrice del libro Il linguaggio segreto del volto, edito da PM. Dottor Franzetti, prima che, che la dottoressa Guglielmi porti via il suo naso... No, interessantissimo il titolo del libro, perché il naso in un contesto che è il volto. E dice tutto di sé, proprio perché è dentro i rapporti con gli zigomi, l'angolo con la fronte, le labbra, eccetera. Quindi complimenti. Grazie dottoressa Guglielmi per essere stata con noi. Grazie a voi. Buona giornata, e i commenti della dottoressa Guglielmi, non dovete fare altro che scattare una foto del vostro naso e mandarcele, potete, tre di voi avranno la fortuna di leggerli domani. A punta, aquilino, grosso, piccolino, ma il naso può essere anche chiuso, gocciolante, pruriginoso, secco. Ci sono tanti segnali, certo, che ci dà il nostro naso quando è infastidito. Perché il naso ci dice due cose. Ci dice come stiamo noi dentro, in tutto l'organismo, come stiamo per esempio nell'intestino, come stiamo a livello gastrico, come stiamo a livello emotivo. Perché è un bel ficcanaso. In che modo ci dice come stiamo nell'intestino? Perché per esempio la quantità di secrezione nasale, il gonfiore delle mucose nasali, la percezione anche dell'olfatto è molto determinata dalla salute gastrointestinale. Quindi cosa significa questo? Che... significa che quando noi abbiamo delle patologie o anche delle situazioni non malattie ma di malessere a livello gastrointestinale, sicuramente avremo delle situazioni nasali come anche faringee eccetera che si ripercuotono in maniera anomala con aumentata secrezione o secchezza per esempio. Quindi è un indicatore della salute del nostro sistema gastrointestinale, e di che cosa d'altro? E anche di com'è l'ambiente fuori. Certo. E poi di tutto il sistema ematico, perché tantissime forme, anche lievi di tipo reumatico oppure autoimmune, eccetera, si manifestano con alterazioni della secrezione e della secchezza nasale. Allora, per chi in questo momento ha il naso chiuso, un esercizio semplice da fare anche adesso. Porta l'indice della mano destra, sinistra se sei mancino, nel punto in cui il setto nasale si attacca alla fronte. Ecco, lì dove c'è una piccola fossetta. Adesso premi. La pressione deve essere decisa, ma non dolorosa o fastidiosa. Mantieni la pressione in questo punto per 30-40 secondi. Dovresti avvertire un piacevole formicolio alle narici. A questo punto il tuo naso dovrebbe essersi liberato. Dottor Franzetti, lei lo sa che un giorno in una seduta di agopuntura il medico mi aveva suggerito, quando ho il naso chiuso, di mettere la punta dell'indice proprio alla base dell'aletta, di quella parte del naso che è chiusa, e di pigiare anche lì. È un esercizio di cui avevamo già parlato anche io e lei, possiamo, certo, darlo, quindi oltre all'esercizio che avete sentito spiccherato dalla nostra brava Alessandra De Luca, io vi invito anche a proprio schiacciare la base dell'aletta. Sì, esatto, perché condiziona due cose, condiziona il flusso venoso a livello del turbinato e anche il riflesso muscolare per la dilatazione delle ali nasali. Allora, quindi adesso anche chi in questo momento ha il naso chiuso, dottor Franzetti, il naso si chiude a volte da entrambe le parti o solamente a volte solo da una? Che differenza c'è? E sono due fenomeni diversi. Si chiude da tutte e due le parti se c'è una secrezione mucosa aumentata, il cosiddetto raffreddore. Sì. Ma si può chiudere alternativamente da una parte o dall'altra per dei meccanismi che si chiamano vasomotori, che sono invece dei meccanismi o di tipo ormonale o di tipo allergico o anche semplicemente dei meccanismi di difesa rispetto degli agenti ambientali oppure di decubito, cioè se uno è, ecco, se un ad esempio molte sull'altro... persone si sentono che il naso si tappa quando sono coricate a letto. Certo. Perché aumenta il flusso di sangue verso questi turbinati e si riduce l'uscita di sangue dei turbinati. Il sangue va verso la testa, si può dire, no? Vi va il sangue alla testa. 800 24 00 24. Adesso anche chi ha il naso chiuso dopo i nostri esercizi dovrebbe essere pronto per sentire, andare per noi a caccia di odori. Io vi ricordo il mio invito a diventare un po' cronisti olfattivi, a confessarci la vostra passione olfattiva, magari un odore che per molti è assolutamente neutro o addirittura sgradevole, che invece in voi accende chissà quale, no, emozione. Marco, buongiorno da Bolzano, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a lei, Marco. Buongiorno. Allora, io avevo una domanda per il professore. Io lavoro nel mondo del vino. Fortunato. E quindi il naso lo uso, diciamo, spesso e volentieri, anzi con molto piacere nell'usarlo. A me capita, quando ho dei problemi di stomaco, di avere una sensibilità maggiore rispetto ai profumi. E allora volevo sapere qual era, diciamo, il legame tra questo discorso di sensibilità e problema di stomaco. Certo. Allora, intanto bisogna dire che è interessante il fatto che si occupi di vini, perché olfatto e gusto sono proprio completamente legati. È chiaro che quando uno ha una problematica gastrica o gastroesofagea, gli succedono due cose: l'aumento della secrezione dei succhi gastrici, quasi sempre, e quindi l'acidità che c'è normalmente nello stomaco tende a risalire lungo l'esofago, e si ha, anche se non con il sintomo del cosiddetto bruciore in gola, però un po' di reflusso di questa acidità. Questo reflusso, tenuto per un po' di ore, altera completamente la situazione e la reattività di tutte le mucose del faringe e del naso. Queste mucose, per difendersi, è come se attirassero a livello sanguigno una serie di elementi che le rendono più sensibili, più irritabili, e quindi anche più sensibili dal punto di vista dell'odore. Non c'è soluzione, una cosa di pronto intervento. Bisogna tamponare l'acidità con degli antiacidi. Con degli antiacidi, oppure utilizzando il classico rimedio, no? Il pane secco. Che dice? Sì, se uno deglutisce o sicuramente mangia qualcosina che assorbe questi succhi gastrici, può ridurre parzialmente l'acidità. Andiamo a Bergamo prima di andare a sentire i mercati. Carlo, buongiorno. Salve, buongiorno, sono Carlo. Sì, buongiorno a lei. Ascolti, l'ultimo consiglio che chiedo a voi in diretta è... Come mai, Carlo? Perché lei parte? Dove ci sentirà più? No, è l'ultimo, perché poi mi farò fare il setto nasale. Ah, forse. No, pensavo che... Cioè, a me quando mi dicono ultimo, è l'ultima volta, eccetera, mi viene sempre un po'... Sento qualche cosa che non fa. Carlo, allora... Perché già un consulto e mezzo con tutte le visite. Insomma, io soffro di una rinite non allergica. Io ormai sono un anno e mezzo che vivo col fazzoletto in mano. Il consiglio è solo il setto nasale. Sì. Tutto qua. Niente, a me dà molto fastidio. Io ho paura di fare il setto, perché alcuni amici hanno fatto il setto e vedo che non hanno risolto il problema. Anche amici più giovani di me, perché io purtroppo questo problema mi sta stressando. È molto fastidioso vivere col fazzoletto. Come si chiama in mano? Di nome? Carlo. Carlo. Anche perché io sono un cantante, come hobby faccio il cantante. Quindi poi così prima dei mercati mi lancia i mercati con un po' cantando. Certo. Allora, sì, ok, dottor Franzetti, una cosa a Carlo, che così Carlo poi lancia i mercati. Carlo, un consiglio. Se ha questa ritrosia, farsi toccare il setto, a meno che il setto non sia deviato in maniera abnorme, provi a fare in anestesia locale un trattamento con il laser dei turbinati e poi tenere il setto come ultima spiaggia. Carlo, ci faccia sapere. Intanto, se lei si prepara, si schiarisca la voce. Io vi ricordo, gli odori mi stanno arrivando. Odore di tartufo mi fa impazzire di piacere. Mi scrive Marco. Invece Enrico mi scrive la lasagna, come un altro ascoltatore, Giorgio. Mi canta i mercati, Carlo? Mi canto i mercati? Cioè, che vi devo lanciare? Sì, cantando. No, cantando. Allora niente, a tutti voi i mercati e buona continuazione. Eccoci, siamo tornati insieme, adesso annusate, perché oggi vogliamo fare anche un'autovalutazione del nostro olfatto, che è un senso intelligente di natura, ma che si sta un po' addormentando. Se fosse un ragazzo, forse sarebbe quello a cui i professori dicono: il ragazzo è intelligente ma non si impegna. Dottor Franzetti, c'è chi ha naso? Sì. E sente anche il minimo odore, profumo, anche... E invece chi è più olfattivamente indifferente? Ma io, tutti i sensi, compreso l'olfatto, hanno uno scopo nella persona, quello di avvicinarci le cose in modo che noi possiamo conoscerle. Quindi, come tutti i sensi, vanno educati. Noi culturalmente non usiamo, o lo usiamo con indifferenza, tranne che per persone che lo usano dal punto di vista professionale, l'olfatto. Io direi che uno dovrebbe come fare due tipi di esercizi proprio quotidianamente per riprendere coscienza del proprio olfatto. Il primo è capire se sente gli odori forti. Che sono? Che vuol dire, per esempio, annusare il caffè, per esempio. Oppure accorgersi se c'è il gas aperto in casa e sì, sente l'odore di gas. Questi sono gli odori più eclatanti, ma sono le cose più comuni. Poi c'è un altro esercizio che è interessante e dà anche più gusto alle cose che si fanno, che va fatto quando si mangia. Cioè spesso, quando o si bevono dei vini o si gustano delle pietanze, queste hanno dei profumi o danno delle sensazioni che sono corrispondenti a dei profumi di cui noi abbiamo memoria con dei fiori. E allora cercare di identificare quando si gusta una pietanza, magari espirando mentre si sta facendo girare il cibo o la sostanza che stiamo bevendo in bocca, di identificare almeno due fiori o profumi che noi conosciamo che ci riconducono a quella pietanza che stiamo mangiando. Un po' come fanno i sommelier quando assaggiano il vino. Solo che loro ne identificano 200. Sì. Allora io dico due. Due, ecco, dai, due alla volta. Due. Intanto io voglio raccontarvi un po' la mappa olfattiva che stiamo disegnando grazie ai vostri sms al 349-238-6666 e che poi metteremo anche su Facebook. L'odore del sapone da bucato, quello verde, quello di una volta, mi è sempre piaciuto moltissimo, ci scrive un ascoltatore. L'odore di letame, di mucca, vita, latte, cibo, il caldo della stalla, fantastico, ci scrive invece Fulvio. Corrado, mi fa impazzire l'odore del sudore della persona che amo. Intanto andiamo a Dante, che ci chiama da Mantova all'800240024. Dante, buongiorno. Sì, Nicoletta, buongiorno. Buongiorno a tutti. Eccoci. Io ho avuto un periodo della mia vita, che parlo di un paio d'anni fa, in cui sentivo ogni tanto, diciamo una volta alla settimana, una volta ogni 10 giorni, un profumo che nessun altro sentiva. Era profumo di legno. Profumo di legno stagionato, profumo di legno quasi di barrique, ecco, sì, direi. Ecco, dopo di questo, adesso è un paio d'anni che non lo sento più, era praticamente un profumo che non c'era nell'aria, un profumo mentale, lo chiamo io. Sì, come una sorta di allucinazione olfattiva. Esatto, di memoria. O di memoria, mi piace di più. Adesso comunque questo legno, un po' barricato, non viene più a trovarla. Come, scusa? Questo profumo di legno non la viene più a trovare, non incontra no, più il suo naso. Sento meno e ho la sensazione di avere meno, l'olfatto meno attivo, insomma, di sentire meno profumi tenui, come diceva prima il professore. Dottor Franzetti. Ma è un fenomeno che ha una doppia faccia. Una faccia è come quella dei sogni, cioè noi abbiamo dei sogni ricorrenti e abbiamo anche dei profumi ricorrenti nella vita che desideriamo sentire e quindi ci ritornano, anche senza che noi riusciamo a controllare questo meccanismo, perché abbiamo una memoria olfattoria. E se c'è qualcosa che gli assomiglia, ci scatena la stessa memoria, come se sentissimo quel profumo. L'altro fenomeno, invece, che è legato a quello che ci diceva il radioascoltatore, è questo, che lui però gli sembra di respirare e di sentire un po' meno gli odori. E allora invece potrebbe essere che nel naso e non a livello del cervello stia succedendo qualcosa, magari una congestione, magari qualcosa che vale la pena andare a indagare, magari facendo un esame con una fibra ottica. Ecco. Gli odori spesso li subiamo, perché a differenza noi possiamo, della vista, noi possiamo evitare di vedere delle cose, chiudere gli occhi, invece puff, l'odore ci viene incontro. Ma gli odori possiamo anche sceglierli e quindi andare noi a cercare loro, come insegna l'aromaterapia, cioè l'impiego terapeutico degli oli essenziali. In linea con noi è tornato a trovarci il nostro dottor Marco Temporin. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Medico, nutrizionista, specialista in igiene e medicina preventiva presso il CMSR Veneto, medica di Altavilla Vicentina. Dottor Temporin, a noi. Mettiamo il naso? Allora, avrei proprio due oli essenziali che possono essere utili per, sia in questa stagione, ma che possono aiutarci a vivere meglio. Il primo olio essenziale che consiglierei è l'olio essenziale che sprigiona i fiori d'arancio. In quanto è un'ottima essenza, serve per migliorare l'ansia, lo stress, e soprattutto penso alla sera quando torniamo a casa, avere un diffusore d'aromi e inalare questa essenza ci aiuta a ristorarci dalle fatiche mentali e dalle tensioni psichiche. Inoltre, sì, per i nostri bambini molto irrequieti o quant'altro si addormentano con difficoltà, questo olio essenziale concilia il sonno. Magnifico, segniamoci. Olio essenziale di fiori d'arancio. Esatto. L'alternativa poi, no, non l'alternativa, ma sicuramente un altro olio essenziale molto utile, vista la stagione invernale a cui ci stiamo avvicinando, può essere l'olio essenziale di eucalipto, il quale ha un ottimo effetto balsamico, sì, e quindi di conseguenza sia per noi ma anche per, soprattutto io penso ai bambini, i nostri piccoli con le bronchitine, con i nasi chiusi, ecco, inalare nell'ambiente l'essenza d'olio essenziale di eucalipto aiuta a respirare meglio. Consigli per l'acquisto, come si scelgono gli oli essenziali, dottor Temporin? Si trovano già pronti, sì, quindi di conseguenza basta chiedere l'olio essenziale specifico utilizzando il nome della pianta, quindi sono assolutamente rintracciabili nelle migliori erboristerie o in farmacia. Quindi è molto facile il consiglio di oggi del dottor Temporin: olio essenziale di eucalipto come balsamico, perfetto per l'arrivo dell'autunno, e olio essenziale di fiori d'arancio, rilassante, aromatico, indicato soprattutto per accoglierci la sera e per prepararci a un buon sonno. Dottor Temporin, grazie per essere stato con noi. Buon fiuto anche a lei. Grazie, un saluto a tutti. Dottor Franzetti. No, interessante questa osservazione che veniva fatta dal dottor Temporin, perché io ritengo che prevenire quello che può succedere nel periodo invernale con questi, diciamo, questi trattamenti è molto meglio che non, per esempio, poi ricorrere all'uso continuato di vasocostrittori che ci comportano tutta una serie di problematiche. Quindi lei mi dice: usate poco gli spray nasali, ma cercate di giocare d'anticipo con lavaggi nasali, ad esempio, che è un nostro forte. E poi mi è venuto in mente un'altra cosa. Dai. Se per caso a qualcuno, perché esiste anche un prodotto di questo tipo, dovesse avere un attacco di sinusite, sì, perché guarda me chissà perché, il concentrato di ciclamino messo odorato, messo a contatto con la mucosa nasale, produce degli starnuti molto forti, sì, che liberano il naso e i seni paranasali. Fantastico. Ciclamino, ricordiamo allora, eucalipto, fiori d'arancio e ciclamino per starnutire bene. Voglio il tuo profumo. E mi state scrivendo al 349-238-6666 il profumo, l'odore che vi piace in modo particolare, l'odore della pioggia dopo un temporale, spettacolare, scrive Marco. Il profumo dell'aceto balsamico, quello vero però, suggerisce Claudio da Trento. Il profumo di cannella, ginger e mela mi manda in estasi, ci scrive Linda. L'odore del fuoco e del camino per Alessandra, l'odore, anzi il profumo del cuoio e dell'erba dei campi da calcio, Maurizio da Milano. E ci sono anche odori che noi non sentiamo, ma in qualche modo ci cambiano, ci attivano, ci fanno assumere determinati atteggiamenti, ci fanno spostare, forse sognare. In linea con noi abbiamo il dottor Marco Rossi. Buongiorno, bentornato, psichiatra e sessuologo. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Sì, è proprio così. Ci sono queste sostanze che sono i ferormoni, no? Che sono delle sostanze biochimiche che sono prodotte dalle nostre ghiandole del sudore. Allora, prevalentemente sono stati scoperti nell'ambito animale, ma hanno una funzione importantissima anche per l'uomo, perché hanno la capacità di creare, suscitare, diciamo così, delle reazioni nelle persone che assentono questi odori. Possono essere delle reazioni di attenzione, di allarme, delle reazioni comportamentali e anche delle reazioni sessuali, quindi di attivazione della pulsione sessuale. Quindi quando una persona ci piace a naso... Esatto, e non per niente si dice così, no? Mi è piaciuto a naso perché abbiamo avuto una percezione prevalentemente inconscia che quella persona era adatta a noi. Ecco, diciamo prevalentemente inconscio perché dobbiamo tener conto che queste molecole non vengono ben recepite dalla nostra corteccia cerebrale, ma attivano la zona dell'olfatto, che è proprio quella più istintiva del cervello. Quindi, dottor Rossi, possiamo dire ai nostri ascoltatori, fidatevi del vostro fiuto. La Salunga. Assolutamente sì, diciamo che allora c'era bellissima la frase di Suskin, sai quello che ha scritto Il Profumo, no? Diceva che il profumo è il fratello del respiro. A me piace dire che la seduzione è figlia dell'odore. E fermiamoci qua, grazie al dottor Rossi per essere stato con noi, buona giornata. Grazie, ciao, a presto. Fernando ci chiama da Lecce, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno e complimenti per la trasmissione innanzitutto. Grazie Fernando, mi fa piacere, mi dica. Solo una cosa, volevo fare una domanda al professor Franzetti. Praticamente mi succede questo, cioè non avverto nessun tipo di disturbo, no? Attualmente non sono nemmeno raffreddato, però o respiro dalla narice destra o respiro dalla narice sinistra. Cioè da entrambe e due, cioè da ambe due le narici non riesco a respirare assolutamente. E cioè, allora il suo naso dice o da una parte o dall'altra. Per Fernando. Sì, non è una malattia, ma può diventare un disturbo perché è un'accentuazione di un fenomeno biologico, fisiologico che noi abbiamo, per cui questi turbinati si gonfiano alternativamente da una parte e dall'altra. In alcuni casi, in alcuni ambienti, questo fenomeno ci crea questi disturbi, per cui o se magari si va a vivere in Florida, in California, che potrebbe essere, già Lecce è una città bellissima, o se no si cerca in qualche modo, magari con delle prevenzioni, degli espedienti, dei lavaggi nasali, di moderare o di mitigare questa reazione. Ricordi Fernando, quando una narice si tappa, mi raccomando, la punta dell'indice ben premuta, come proprio una pressione intensa alla base dell'aletta, qualcosa si muove. Se lo lasci dire da me, che di naso tappato me ne intendo. Grazie a Fernando. E abbiamo in linea con noi Alberto dalla provincia di Venezia e Maurizio da Milano, due ascoltatori che mi segnalano dalla regia vogliono rispondere al quizzettone multiplo del dottor Franzetti. Iniziamo subito allora da Alberto. Buongiorno Alberto, benvenuto. Buongiorno a voi e al dottore anche. Buongiorno. Io sono stato operato di turbinati, sì, perché per il problema che avete voi donne, che i maschi russano. Ah. Russiamo. Comunque, anche noi, però. Insomma, è stato un atto d'amore. Un particolar modo. Comunque, insomma, volevo dare la risposta del... Sì, Alberto. Allora, sì. Io pensavo la C. Cioè? Ci sono due turbinati. Due turbinati, dice Alberto, che tra l'altro è stato operato, quindi questo dovrebbe... No, in qualche modo facilitarlo. Però noi abbiamo anche Maurizio che ci chiama da Milano. Come la mettiamo? Diamogli la parola. Buongiorno a lei Maurizio, benvenuto. Sì, buongiorno anche a voi. Sì, come... Sarei orientato sulla domanda 2, nel senso che abbiamo più di abbiamo i turbinati inferiori, i turbinati superiori, insomma abbiamo una struttura più complessa. Quindi secondo lei, in sostanza, dato che dobbiamo chiedere i numeri, Alberto ci ha detto... Alberto, lei ha detto sì, due. Sì. E Maurizio quanto butta? No, quanti ne dice? Mi sembrava era variabili. Abbiamo... 6 o 2? Lei che cosa sceglie? No, io scelgo 6. Sei. Maurizio esagera e dice 6. Dottor Franzetti, state lì, Alberto e Maurizio. Allora, dottor Franzetti. I turbinati, anche se quelli prevalenti nella loro funzione sono quelli inferiori, però sono 6. Sei un ben di Dio di turbinati. Medi e superiori che orientano molto anche l'olfatto. Quindi la risposta corretta è quella di Maurizio, che ci chiama da Milano, sì. A cui noi faremo... Bravo Maurizio, non era facile, eh? No, non era facile. Grazie Alberto della provincia di Venezia, che non ha risposto giusto. Però, però è partito dalla sua esperienza di russatore. E soprattutto non russa più, esatto, quindi un uomo da sposare. Più Maurizio invece riceverà a casa il libro Il linguaggio segreto del volto, che di cui abbiamo anche parlato noi oggi con la dottoressa Anna Guglielmi, che l'ha scritto all'editore PM. Che dobbiamo dire, dottor Franzetti, ci aspetta un inverno. Speriamo che insomma il nostro naso sia risparmiato. Mi raccomando, teniamolo bene. Un piccolo consiglio prima di salutare, per salvare naso e olfatto, dottor Franzetti. Usiamo bene il nostro naso, educhiamolo e magari laviamolo la sera. Laviamolo alla sera, anche lui. Grazie al dottor Franzetti per essere stato con noi. Vi ricordo che potete scaricarci, seguirci su Facebook e su Twitter. Mandate il vostro naso e i profumi che vi piacciono. Per oggi è tutto. Matteo Comes in regia alla parte tecnica. Laura Manossi in redazione. Grazie per essere stati insieme a me. Io vi aspetto come sempre domani. Buona giornata da Nicoletta.